Siamo in collegamento con Edoardo Ricciardelli, il regista dello spettacolo Brigantesse, che sarà in scena al Teatro di Documenti qui a Roma per 3 giorni, dal 23 al 25 questa settimana. Edoardo, benvenuto al Radio Teatro su Onda Rossa. Ciao, buongiorno, grazie a voi di questa chiamata e dell'invito. Beh, ho visto già dal titolo, poi il tipo di spettacolo. Sul brigantaggio abbiamo ospitato già diversi lavori e quindi era doveroso sentirti. Allora, partiamo dallo spettacolo. Intanto spieghiamo, raccontiamo di cosa si parla in breve. Allora, lo spettacolo parla di 4 donne che sono in un paese del Cilento, un paese abbandonato che si chiama Roscigno Vecchia. L'idea della scrittura è nata così, un po' per fantasia, un po' per delle ragioni appunto di visione proprio di questo luogo, che invito comunque gli ascoltatori a visitare, che è nei pressi di Bello Sguardo. E queste donne vivono una condizione di lotta, e quindi loro sono chiuse in casa aspettando di compiere delle azioni criminali, accompagnate da un personaggio maschile che idealmente è la figura di Carmine Crocco. Insomma, queste donne rappresentano Michelina De Cesare e tante altre donne, e il racconto è ispirato alla fase del brigantaggio che va intorno al periodo dell'Unità d'Italia, quindi stiamo parlando intorno alla decade del 1860, e si svolge in questo spazio chiuso dove loro vivono e rispetto al quale sopravvivendo si organizzano per delle azioni, mettendo in rilievo tutta la loro fragilità. Quindi è un lavoro che al femminile mette in rilievo quelle che sono le problematiche appunto della donna, non solo in quella fase, ma la fragilità femminile nel suo essere per necessità crudeli. È una ripresa di uno spettacolo, è una riscrittura di uno spettacolo che io già feci precedentemente, e inizialmente nello spettacolo facevo una lettura di un'autrice jugoslava, dell'ex Jugoslavia, che parlava appunto della condizione delle donne nelle carceri durante la guerra. Quindi il parallelo è quello comunque di donne che purtroppo, o per forza di cose, devono lottare per sopravvivere, quindi nel momento in cui gli hanno ucciso i padri, gli zii, i fratelli, hanno stuprato le sorelle, hanno stuprato loro stesse, loro si sono state costrette a lottare per sopravvivere, non per un piacere o per diventare delle criminali. Edoardo, dove è partito tutto? Tutto è partito dalla lettura di un libro che si chiama proprio Brigantesse, che mi regalarono insomma una decina d'anni fa. L'avevo letto e c'erano appunto il ritratto di tutte queste donne, con queste foto che comunque all'occhio insomma del pubblico sicuramente sono passate davanti agli occhi del pubblico. E sono queste foto di questi briganti uccisi, sparati in testa, lasciati nelle terre, nel senso che in realtà era una forma di sommossa popolare. Poi voglio dire, tutto quello che è successo in quel periodo è importantissimo, comunque l'idea di libertà e l'idea di unità che portarono nel 48 la Repubblica Romana, l'idea di Carlo Pisacane, anche l'idea garibaldina di unificazione, però poi si è rivelata a livello storico una sorta di bluff, non per la liberazione dai Borbone, ma per la liberazione proprio popolare, per la liberazione dell'identità degli uomini. Perché una cosa che dice Pisacane, alla quale sono molto legato, dice: è inutile istruire un popolo che non è libero. E quindi dai fatti possono scaturire delle idee. Comunque il lavoro sul brigantaggio a livello di scrittura è nato perché scrissi delle frasi che erano relative a loro, che ancora fanno parte del prologo dello spettacolo, alle quali tengo, e tengo a dirle anche qui in radio, che sono: esse non sono più donne, esse non sono briganti, a loro non è concesso di amare con dolcezza, esse sono incanto fragile e scuro, morte di uomini uccisi da donne che sotto le loro gonne non hanno bellezze di gambe e carezze, ma mani pronte a far brillar lame. Questa è stata, insomma, la prima parte scritta che poi ho mantenuto nelle diverse edizioni e della quale comunque sono molto contento per l'immagine che crea. Sicuramente parte dal voler evidenziare una fragilità non solo femminile, ma una fragilità profondamente umana che viviamo anche nel nostro tempo. E teatralmente devo ringraziare, se tu mi permetti, Federico, certo, gli attori che collaborano in questa fase, in questa nuova edizione, che sono Antonio Lubrano, che è un attore napoletano di grande esperienza, ha lavorato con Merola, con i Taranto, insomma ha avuto delle grandi e porta una grande esperienza appunto all'interno del lavoro. Poi ci sono Susi Pariante, Alessandra Masi, Clara Morlino e Apollonia Bellino. I costumi sono di Domizia Romano e l'ufficio stampa è Maria Rosaria Lisi. L'aiuto regia di Raffaella Cosmo, e ringrazio tutti loro, perché poi volevo ringraziare pubblicamente uno spazio che ha reso possibile la messa in scena e la costruzione di questo lavoro e che ci ha dato veramente una grande possibilità di libertà e di gioia nel provare, che lo Spin Lab a Viale vicino a San Giovanni a Roma. Non so se tu hai altre domande, sì. Io inviterei veramente il pubblico a venire a confrontarsi con noi, perché per me è un momento importante di confronto quello che si terrà al Teatro dei Documenti, che è uno spazio d'arte non solo perché è stato aperto da Luciano Damiani con la collaborazione di Streller, ma proprio perché vive sotto al Monte dei Cocci e vive di una vita propria. E già lo spazio di per suo è uno spettacolo, quindi invito anche gli ascoltatori che non l'hanno mai visto a venire proprio per vedere anche il teatro, insomma. Bene, senti, volevo chiederti anche rispetto alla scrittura, quali sono stati i testi di riferimento? Guarda, i testi di riferimento, diciamo che oltre ai testi bibliografici e storici e varie storie, c'è un libro al quale che mi ha lasciato molto colpito, che è Il Massacro del Sud, un libro che un mio cugino, che è musicista e antropologo, Valerio Ricciardelli, mi aveva dato perché voleva che io raccontassimo insieme una storia legata al legata alla storia di queste due figure, due giovani che arrivati a Gaeta furono, insomma, trucidati, ma la cosa interessante è che loro arrivarono a Gaeta e lei non aveva mai visto il mare, e arrivarono a Gaeta a cavallo dall'interno, dai paesi interni, vedendo qual era la condizione dei contadini del tempo, quindi una condizione che sotto il governo dei Borbone lasciava comunque le persone del popolo del Regno delle Due Sicilie in una condizione veramente difficile, e quindi la liberazione doveva essere veramente una liberazione dai Borbone, mentre è stata un'unificazione. E storicamente anche io in questo momento sono al sud, e per un problema di infrastrutture, per un problema sociale, culturale, per un problema storico, secondo me è una possibilità mancata, veramente, veramente. Quindi il lavoro che fecero, il lavoro anche di opposizione all'esercito piemontese, a tutta il Regno Sabaudo, che i briganti volevano fare, era quello di proteggere, insomma, il popolo. E questa è una cosa, secondo me, molto importante, però ci sono dei dati storici che sono legati alla non cultura, sono legati all'impossibilità di conoscere, che è quella sulla quale poi la politica ha giocato e gioca dei colpi molto duri al popolo, che siamo noi. Ti ringrazio. Allora, ricordiamo l'appuntamento al Teatro dei Documenti. Brigantesse. Teatro dei Documenti, Brigantesse, giovedì, venerdì e sabato 23, 24 e 25 alle ore 21 in via Zabaglia 42. Testaccio. Testaccio, esattamente. Senti Edoardo, avete anche degli spazi internet di riferimento, della compagnia? C'è una pagina, sì, c'è una pagina Facebook della compagnia che è Teatraltro, c'è un sito www.teatraltro.com e possono essere tranquillamente visitati. C'è un evento su Facebook Brigantesse che è pubblico, quindi è visibile con tutti i dati anche postati dall'ufficio stampa eccetera. Benissimo. Quindi c'è tutto lì. Un abbraccio e ci si vede. Io ti ringrazio Federico e a presto vederti, ti aspettiamo anche a te a teatro e aspettiamo tutti voi e buona primavera soprattutto. Anche a te un abbraccio, ciao. A presto, ciao.